ghiaccio che fredda questo cuore sfatto, che ha preso troppe botte, si ribella e non ha voglia della guerra. Baratto, un sorriso per un pianto distrutto, da un tempo che non ha visto tutto e non ci credo più. Non ci si può fidare di chi ti sta accanto, non ci si può guardare dentro fino in fondo. C'è poco tempo per me, io non ho più niente da regalare per questo che sono qui a comprare qualcosa da dare. Ghiaccio, che fredda questo cuore sfatto, che ha preso troppe botte, si ribella e non ha voglia della guerra. Coraggio, non mi distruggerai per una notte. Ho fiato ancora per amare, ho fiato ancora per girare intorno a te. Non ci si può fidare di chi ti sta accanto, non ci si può guardare dentro fino in fondo. C'è poco tempo per me, io non ho più niente da regalare per questo che sono qui a comprare qualcosa da dare. Questo cuore è orribilmente spezzato, è orribilmente spezzato, è orribilmente spezzato, è orribilmente spezzato.